48. Passatelli di semolino. Semolino di grana fine, grammi 150. Parmigiano grattato, grammi 30. Latte, decilitri 6. Uova, 2 intere e 2 rossi. Sale, odore di noce moscata e scorza di limone. Cuocete il semolino nel latte e se vedete che non riesca ben sodo, aggiungetene un altro pizzico. Salatelo quando è cotto ed aspettate che abbia perduto il calore per gettarvi le uova e il resto. Ponete il composto nella siringa con uno stampino a buchi rotondi piuttosto larghi e spingetelo nel brodo bollente tenendo la siringa perpendicolare e fatelo bollire finché i passatelli siensi assodati. Questa dose potrà bastare per 6 o 7 persone.